giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sciopero dei treni, alta in regione l'adesione alla protesta, intorno al 70% secondo gli ultimi dati tra il personale viaggiante. Primi provvedimenti in seguito agli scontri del dopo partita di basket fra Trieste e Varese, coinvolti esponenti di entrambe le tifoserie. Elezioni presidenziali USA, l'American Corner di Trieste, ci si prepara a seguire la Election Night di questa sera. Caporalato, impegno collettivo per contrastarlo in Friuli occidentale, tavola rotonda a Pordenone con la CISL. Spaccio a minorenni, arrestati a Trieste, due cittadini stranieri usavano come copertura il negozio di uno di loro. Presto nelle sale della regione No More Trouble, il docufilm sulla scomparsa del velista udinese Andrea Romanelli, raccontata dal figlio. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. 8 ore di sciopero anche in Friuli Venezia Giulia per l'astensione nazionale dal lavoro decisa dal personale di Trenitalia con tutte le sigle sindacali dopo l'accoltellamento di un capotreno ieri a Genova e ai disagi provocati dall'iniziativa di protesta con cui si chiede maggiore sicurezza per chi lavora. Ora nel settore del trasporto pubblico si sono aggiunti questa mattina i ritardi provocati da un guasto sul sistema di distanziamento dei treni sulla linea tra Trieste, Bivio, Aurisina. Effetti dalle 6:10 alle 8:30 la circolazione è stata rallentata in direzione Venezia con 3 frecce e 25 treni regionali che hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti, ma sentiamo come sta andando lo sciopero in regione e con quali disagi per i viaggiatori in questo primo servizio. A sentire le voci dei viaggiatori rimasti a terra raccolte alla stazione di Trieste sono notevoli finora i disagi per lo sciopero nazionale dell'ultima ora indetto da tutte le sigle sindacali di categoria in risposta all'accoltellamento di un capotreno a Genova. Il richiamo della commissione di garanzia a rispettare il diritto dell'utenza non sembra per ora averli contenuti. Secondo le stime dei sindacati in regione, l'adesione alla protesta cominciata alle 9 e in corso fino alle 17 è alta in tutti i settori, non solo capitreno e macchinisti, ma anche personale operativo di biglietterie e uffici, intorno al 50% solo tra quello viaggiante, fermi per questo numerosi treni regionali e a lunga percorrenza, nessun dato ufficiale al momento da Trenitalia, che però conferma le molte adesioni e cancellazioni, intanto condanna unanime dell'aggressione al capotreno da parte dei rappresentanti sindacali regionali, unanime anche la critica all'intervento del garante e un diritto costituzionale anche quello dei lavoratori di poter raggiungere il proprio posto di lavoro e tornare a casa sani e salvi, afferma Sasha Ciulev, segretario generale FILT CGL. Ridurre lo sciopero ad azione simbolica significa sottovalutare il problema, rincara invece Patrizia Zambon, segretaria regionale della UIL Trasporti, che rimarca inoltre come le aggressioni sui mezzi pubblici siano ormai all'ordine del giorno anche in regione. L'ultima, un controllore su un bus a Udine, ha fatto tornare i sindacati dal prefetto a sollecitare interventi per la sicurezza, mentre si attende l'avvio di un tavolo permanente richiesto all'assessore regionale ai trasporti Cristina Mirante. Antonio Pittelli, segretario regionale FIT CISL, invoca interventi immediati con personale addetto alla sicurezza in tutti i luoghi a contatto col pubblico e soprattutto la celerità e certezza della pena per i responsabili. Ricorda che per le stesse ragioni, oltre che per il rinnovo del contratto, si tornerà a protestare l'8 novembre con lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. E secondo gli ultimissimi dati raccolti dalle sigle sindacali del trasporto pubblico, l'adesione allo sciopero tra il personale viaggiante in Friuli Venezia Giulia sarebbe ancora più elevato e sarebbe ormai intorno al 70%. Ci sarebbero i primi provvedimenti dopo l'agguato dell'altra sera al termine del match di basket Trieste-Varese con due fermi di altrettanti ultras della curva nord di Trieste. Uno sarebbe giovanissimo e 4 o 5 fermi tra i tifosi di Varese. Domenica sera c'era stato un agguato in piena regola con mazze, bastoni e lancio di torce. Protagonisti una ventina di tifosi di Varese che dopo la gara tra Trieste e Open Job Metis avevano aspettato all'uscita principale del Palasport Giuliano per dare sfogo alla loro violenza. Il bilancio era stato di 4 feriti, di cui una poliziotta. La questura di Trieste si era detta fiduciosa di poter identificare tutti i protagonisti della violenza grazie alle testimonianze e alle telecamere della zona. La sesta commissione del Consiglio regionale prosegue le visite nelle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Questa mattina i consiglieri hanno effettuato un sopralluogo a Fagagna nella comunità Il Mondo in Casa, gestita da Oikos, che ospita 20 ragazzi minorenni. Un luogo dove crescere, imparare la lingua, andare a scuola, inserirsi nella società. L'obiettivo è portare i ragazzi verso l'autonomia e il compimento della maggiore età. Classi da 4 ragazzi dove si impara la lingua, laboratori creativi, ma anche comportamentali per scambiare e capire, per poi indirizzare i codici socio-compartimentali. Gli operatori sono attenti a non creare gruppi etnici omogenei, turni per la gestione degli spazi comuni. L'inclusione si crea prima nella comunità per poi esportarla all'esterno. Per i consiglieri della sesta commissione è stata la quarta visita a una struttura del genere, strutture finanziate anche da fondi regionali. Si verifica la gestione delle risorse e la sicurezza dei ragazzi. Molti sono rimasti colpiti dall'organizzazione e dall'ordine. L'Italia per loro è un grande tricolore e la nuova casa di Fagagna. Arrivano da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Egitto. Sono tristi quando pensano al passato e non sentono la famiglia. Portano con sé segni fisici ma soprattutto psicologici. Il 20% presenta problemi legati alla sindrome post-traumatica da stress. Per il presidente dell'Oikos, Giovanni Tonutti, non si fa abbastanza, non ci sono abbastanza strumenti per gestire questo disagio personale nato da infanzie mancate, violenze subite nei paesi di provenienza durante il viaggio in Italia. Alcuni non sono mai stati bambini. Fagagna, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. La polizia di Trieste ha arrestato un cittadino indiano di 34 anni e un pakistano di 18 regolari sul territorio nazionale per traffico di sostanze stupefacenti. Gli arresti al termine di un'attività investigativa protrattasi per diversi mesi a contrasto del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti eseguita dalla squadra mobile della Questura e diretta dalla Procura della Repubblica di Trieste. Molte le cessioni documentate. Le indagini hanno consentito di scoprire una vera e propria organizzazione. Il capo, nonché titolare di un'attività commerciale di copertura in pieno centro cittadino, riceveva le telefonate degli acquirenti, mentre l'altro si occupava della consegna della sostanza su indicazioni del primo. Molte le cessioni giornaliere effettuate, la maggior parte a ragazzi giovanissimi, spesso minorenni. Dopo le indagini e le perquisizioni domiciliari e nell'attività commerciale, i due uomini sono stati arrestati in flagranza dagli agenti della mobile perché trovati in possesso di 800 grammi di hashish e di una importante somma di denaro contante e trasferiti in carcere a Trieste. Parliamo adesso di caporalato anche nella destra tagliamento e il settore agricolo, quello dove si registrano più vittime dello sfruttamento. Il punto in una tavola rotonda a Pordenone. Caporalato serve un impegno collettivo per contrastare il fenomeno presente anche in Friuli occidentale. Se ne è discusso nella tavola rotonda organizzata dal punto di ascolto antimobbing di Pordenone con la CISL di Pordenone e la FAI CISL del Friuli Venezia Giulia. A pagare il prezzo più alto in termini di vittime dello sfruttamento è il settore agricolo. In questo territorio nel 2023 gli immigrati rappresentavano il 66% degli occupati del comparto. In crescita le presenze da Pakistan e India. Il segretario generale aggiunto della FAIL CISL Friuli Venezia Giulia, Andrea Menegoz. L'attenzione che dobbiamo portare è sulle aziende senza terra che stanno operando soprattutto sul territorio del Pordenone. Su 191 aziende fittizie ne abbiamo 131 a Pordenone. Queste aziende praticamente operano nel settore agricolo che secondo il nostro punto di vista non dovrebbero neanche utilizzare quel contratto del settore agricolo ma dovrebbero utilizzare il contratto del terziario. Queste aziende fittizie possono utilizzare la manodopera in maniera impropria, magari mettendo poche giornate, giostrandosi su un Unilav che magari è fittizio e le paghe sono anche lì un punto dolente. Salari iniqui e condizioni di lavoro degradanti che minano la dignità delle persone ma anche l'integrità del sistema economico e sociale. Da inizio anno la Guardia di Finanza di Pordenone ha individuato 233 lavoratori in nero e 33 irregolari e ha verbalizzato 127 datori di lavoro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 17 gradi, a Gorizia e Udine 17 gradi e mezzo, a Pordenone 17, a Forni di Sopra 12 gradi e mezzo, a Tolmezzo e Piancavallo 12 gradi, a Sappada 8, a Tarvisio 5 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 8 gradi e mezzo, a Grado 17 gradi e mezzo, a Lignano 17 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA. Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, per velatura ad alta quota 0, termico a quota 3.700 metri circa. Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, per velature ad alta quota sulla costa Sofia Raborino al mattino e in serata. Nel Tarvisiano possibili nubi basse nelle ore notturne e al mattino. E voltiamo pagina. Dopo il Covid è ripresa l'emigrazione dall'Italia verso l'estero. Da gennaio a dicembre 2023 si sono iscritti all'AIRE per la sola motivazione espatrio 89.462 italiani, quasi il 55% maschi, quasi il 67% persone celibi o nubili, il 27% invece coniugati circa. Lo si legge nel rapporto Italiani nel mondo presentato oggi dalla Fondazione Migrantes. Se in numeri assoluti le regioni per le quali è più consistente il flusso migratorio di italiani verso l'estero nel 2022 sono stati la Lombardia con circa 19.000, il Veneto circa 9.500 e poi Sicilia ed Emilia Romagna, la quota più elevata di donne che espatria si è registrata in Friuli Venezia Giulia e in Valle d'Aosta. Nel 2022-2023 nel complesso i principali paesi di destinazione sono ancora Regno Unito e Germania, seguiti da Svizzera, Francia, Spagna, Brasile e Stati Uniti. Questi paesi accolgono nel complesso il 65,5% del totale degli espatri degli italiani. Elezioni presidenziali negli Stati Uniti, si stima siano 4 milioni gli americani residenti all'estero, 2,8 quelli che possono votare, ma in realtà una piccolissima percentuale di questi, sotto il 4%, lo fa davvero. All'American Corner di Trieste, ex consolato, è tutto pronto per seguire la notte elettorale. Siamo andati a vedere i preparativi. Bandierina a stelle e strisce ovunque, due sagome formato naturale dei due candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump, accanto il ballot box, la scatola che raccoglie le schede elettorali dove si vota. È tutto pronto, insomma, per la serata che inizierà alle 8 all'American Corner di Trieste in attesa dell'esito del voto americano. Si simula una sorta di voto simbolico, giusto per trascorrere insieme la serata. Denise Tecchio, coordinatrice dell'American Corner, un luogo che a Trieste è stato un consolato per quasi 300 anni, e lei invita tutti a votare, li ha invitati gli americani. Io sempre invito gli americani a votare, comincio già in gennaio ogni anno e vado avanti tutto l'anno e giro per Trieste con la maglietta Vote. Perché è importante votare se si vive come lei da moltissimi anni in Italia? È importante votare perché ho diritto al voto e comunque americani pagano le tasse in America. Io non posso protestare per quello che succede in America se non voto. È difficile votare, come si fa? È complicato, bisogna organizzarsi in anticipo perché non si può votare all'ultimo momento. Prima bisogna richiedere le schede elettorali, riceverle via email. Certi stati puoi stamparli, prepararli, rispedirli per posta, altri ti lasciano mandare via email. E si fa quanto tempo prima? Non certo stasera. Ma per legge ogni stato deve mandare le schede 45 giorni prima. Allora io ho già ricevuto le mie schede il 20 di settembre. Ho votato il 21 e il 22 ero già in posta a spedirli. Questa sera farete una specie di finto voto, tutti potranno partecipare e votare i due candidati. Perché lo fate? Ma lo facciamo per stare insieme, siamo un'associazione. Abbiamo soci americani, sì, ma anche la maggioranza italiani che non possono votare per le elezioni vere, ma qua possono. E qua votiamo solo per il presidente. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo di sistema sanitario. Nonostante gli ultimi dati evidenzino alcuni recuperi di efficienza rispetto ai tempi della sanità, il problema delle liste d'attesa, secondo la CISL regionale, resta ancora irrisolto. Il sindacato ha così deciso di attivare per il momento a Udine un servizio sperimentale per ripristinare congruenza tra tempi di attesa e le indicazioni previste dalle impegnative. Il servizio è gestito da Adiconsum. L'associazione, per conto della persona tutelata, sollecita ufficialmente tramite apposito modulo l'azienda sanitaria del Friuli Centrale all'osservanza delle prescrizioni, ottenendo o l'appuntamento entro il termine indicato dal medico di base o il riconoscimento delle spese e oneri sostenuti per la prestazione sanitaria in un'altra struttura. Bene per la CISL anche alcune misure messe in campo dalla Regione, come l'estensione delle fasce orarie e delle giornate a partire dal sabato per alcune prestazioni ed esami diagnostici, ma devono essere ampliate anche ad altre aziende, prevedendo da subito anche la copertura salariale del personale. Il sindacato ricorda che si tratta però di attività aggiuntive svolte su base volontaria da un personale già stanco e sotto stress. Dalle linee di gestione 2025 la CISL si attende che vengano tenuti in maggiore considerazione i bisogni della popolazione più fragile, a partire dagli anziani, che nei prossimi 5 anni aumenteranno di 33.000 unità. Oltre 180 educatori e insegnanti hanno partecipato al percorso formativo proposto dal Comune di Gorizia nell'ambito del sistema educativo integrato 06 promosso dalla Regione. A gennaio parte la seconda edizione. In una società sempre più digitalizzata, dove i bambini e le bambine faticano ad esprimere le proprie emozioni e di conseguenza gestire i rapporti con gli altri, gli educatori della fascia di età 06 puntano su una didattica in cui il gioco, lo stare all'aria aperta, ma anche la creatività e il libro svolgono una funzione centrale. Sono stati questi i temi del percorso formativo per educatori e insegnanti proposto dal Comune di Gorizia in 16 comuni che vanno dal Coglio all'Alto Isonzo. Il titolo della prima edizione, Bambini che si rompono facilmente, titolo anche del libro di poesie di Silvia Vecchini, che è stata anche ospite di uno degli incontri al centro Lenassi di Gorizia. Rosalba Terpin, referente per i nidi e le scuole d'infanzia del comune di Gorizia. Riscoprire il giardino non come spazio libero dove tutti si scatenano e corrono, ma come spazio creativo dove si possono fare delle attività come l'interno, ecco, questi sono stati un po' gli obiettivi della nostra formazione, cercare di lavorare sulle emozioni, sulla creatività e sul vivere all'aperto. Nell'ambito del sistema educativo integrato 06 promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono state proposte da gennaio ad oggi 4 lezio magistralis e 6 laboratori da 12 ore a cui hanno partecipato oltre 180 educatori, insegnanti ma anche studenti universitari, ricercatori e operatori sanitari. La seconda edizione partirà in gennaio e coinvolgerà anche esperienze pedagogiche di Nova Gorizia. Attraverso il polo sloveno italiano di Doberdò e quello di Via Gabrizio, una collaborazione con Nova Gorizia, dove c'è un progetto per bambini più grandi che riguarda il Lego e la robotica, ma in una prospettiva che si comincia da piccoli e poi si diventa grandi. Gorizia, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel secondo trimestre 2024 hanno ripreso lievemente a salire, più 0,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, i mancati pagamenti delle PMI e grandi aziende, non per le microimprese. Lo rivela lo studio di Cerved sulle abitudini di pagamento delle imprese italiane. Dal punto di vista geografico, in 13 regioni su 20 si osserva una diminuzione, mentre crescono in Sicilia, Valle d'Aosta, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, più 0,4%, Umbria e Lazio. 500 operatori in Piazzale dell'Agricoltura a Udine, lo snodo della logistica dell'ortofrutta in Friuli pronto a trasformarsi grazie a importanti interventi. Trasformare lo snodo logistico del mercato ortofrutticolo di Piazza dell'Agricoltura a Udine in un centro all'avanguardia, moderno ed efficiente dal punto di vista energetico, sono gli obiettivi del progetto approvato dalla giunta comunale del capoluogo friulano. Nel suo complesso è previsto un impegno economico di oltre 20 milioni di euro da approvare in via definitiva nei prossimi mesi per arrivare alle procedure di gara entro gennaio del 2025 e conclusione dei lavori entro il 2026. Con questi lavori si intende migliorare la funzionalità e sostenibilità della struttura, favorendo il lavoro degli oltre 500 operatori del mercato con strutture sicure, sostenibili e automatizzate. In linea generale ci sarà il consolidamento strutturale dell'edificio. Nel cosiddetto canalone, l'area dove avviene ogni giorno la compravendita dei beni ortofrutticoli tra grossisti e commercianti al dettaglio, saranno realizzati, insieme a quello di illuminazione, nuovi impianti di raffrescamento e ventilazione, fondamentali per la conservazione dei cibi in vendita. Saranno poi installati una nuova centrale tecnologica che garantirà prestazioni energetiche superiori a quelle attuali e un magazzino automatizzato per migliorare l'organizzazione logistica. Sul versante sostenibilità sarà poi installato sul tetto un impianto fotovoltaico che ottimizzerà il consumo di energia. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Resia mette all'asta un immobile, si tratta dell'ex colonia di Coriti su un borgo antico ai piedi del Monte Canin. L'asta pubblica si terrà dopodomani, 7 novembre. È la soluzione ideale per una nuova impresa, magari gestita da giovani che vogliano investire in progetti di accoglienza e ricettività, spiega la sindaca di Resia Anna Micelli. L'ex colonia è situata nel cuore del Parco delle Prealpi Giulie e della riserva di biosfera MAB UNESCO Alpi Giulie. Premiato al Festival del Cinema di Roma, il 6 novembre sarà a Milano e poi il 12 in anteprima al Visionario di Udine e a Cinema Zero di Pordenone il docufilm del regista friulano Tommaso Romanelli No More Trouble, cosa rimane di una tempesta, che racconta la tragedia in mare che 26 anni fa gli portò via il padre, il velista udinese Andrea Romanelli. Il film sarà poi anche a Trieste e nelle sale di tutta Italia dal 14. Ti ricordi l'ultima volta che hai visto mio papà? L'ho visto un momento prima che il frangente ci ribaltasse. È la notte del 3 aprile 1998, quando al largo delle coste francesi l'udinese Andrea Romanelli, ingegnere, progettista navale e velista, scompare in mare, travolto da un'onda anomala durante una tempesta. La barca che stava timonando era quella di Giovanni Soldini. 26 anni dopo, al Festival del Cinema di Roma, arriva il docufilm No More Trouble, cosa rimane di una tempesta, opera prima del regista friulano Tommaso Romanelli, 30 anni. È il figlio di Andrea, al momento della tragedia aveva 4 anni, un lavoro che conquista la critica e riceve anche un premio. Quanto senti di assomigliare a tuo padre dopo averlo ritrovato con questo lavoro? Mi sento di somigliargli moltissimo in un sacco di cose che già sapevo, cioè nell'aspetto fisico, nella voce, nei toni, ma anche in un sacco di cose che non sapevo. Come nasce il tuo lavoro? Il progetto è nato quando ho trovato in casa queste videocassette, che erano delle videocassette girate dall'equipaggio con cui era mio padre in Atlantico nel 98, quando stavano cercando di battere il record sulla tratta New York Cape Lizard. La prima immagine che ho visto è stata questo zoom in su mio padre con la tempesta dietro. Poi c'è la figura di tua madre, Fabrizia Maggi. Come ti ha raccontato questa tragedia? Me l'ha raccontato attraverso una fiaba. Parli mai con tuo padre? È capitato di parlarci nei sogni e ultimamente ho fatto dei sogni in cui tornava e ci parlavo ed era molto divertente. È un film sull'amore essenzialmente, quindi ciò che rimane è tutto l'amore che mio padre aveva lasciato. Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Marco Ferrito e Bruno Montevecchi. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.